Ciao a tutte e tutti, questa è la terza puntata di Ururu. Questa volta partiremo dalla casba di Orano in Algeria per ascoltare il Rai, che è nato proprio a Orano, anche se durante la trasmissione ascolteremo un paio di pezzi sempre dal Maghreb, ma non di Rai. Una piccola introduzione e un po' il significato di questa parola. La parola Rai significa opinione, avviso o punto di vista, e quando si è diffusa apparteneva al genere lamentazione, cioè un cantore incolpava se stesso delle scelte fatte e gli errori compiuti a causa del proprio cattivo ingegno, dei propri sentimenti e via dicendo. Ed era una forma di testo su cui si innestava una base musicale, una forma di testo su una base musicale che si basava sulla tradizione poetica araba. Appunto la base musicale invece era già una commistione tra elementi berberi e arabi. Per via dei suoi contenuti morali era adatta soprattutto alle feste religiose, come il matrimonio o la circoncisione, ma già negli anni 20 del Novecento mutò il registro, diffondendosi nei souk e nelle taverne e celebrando l'amore, il vino e i piaceri terreni. Proprio a causa dei suoi contenuti licenziosi, le autorità religiose cercarono di limitarne la diffusione. Ma è nel secondo dopoguerra che il Rai esplose come genere musicale, diventando uno dei simboli dell'identità nazionale algerina. Ai tradizionali strumenti musicali arabi, in particolar modo l'oud, che è una specie di liuto, liuto tradizionale arabo, appunto dicevamo che al posto del tradizionale oud si andarono affiancando la tromba, il banjo, il piano e anche sonorità europee si mescolarono a quelle arabe e berbere, dando vita appunto a questo genere musicale unico. Successivamente le influenze del rock, del pop francese e spagnolo, la Spagna in quanto vicina da un punto di vista geografico ad Orano e ad Algeri, le due città in cui si è sviluppato maggiormente questo genere musicale, e la Francia, perché appunto l'Algeria era una colonia francese e che anche dopo l'indipendenza comunque mantenne degli stretti legami con l'ex madrepatria, diciamo, appunto queste influenze diedero vita ai pop rai, che produssero, sfornarono, diciamo così, dei cantanti molto, molto conosciuti, non solo in patria, ma anche nel panorama musicale europeo. Sheikh Khaled è quello più noto, ma anche altri come Cheb Mami, Sheikh Aramitti, Cheb Zaunia, e soprattutto volevamo fare un cenno particolare a Cheb Hasni, in quanto fu vittima proprio di una di quella guerra, diciamo, che il fondamentalismo islamico, tramite proprio una fatwa, diciamo, condusse, portò avanti contro i cantanti di Rai. La portò avanti proprio perché diciamo, i testi delle loro canzoni parlavano appunto della vita di tutti i giorni, non seguivano i canoni religiosi propriamente detti. E appunto ci piace ricordare Cheb Hasni, in quanto fu ucciso in un attentato proprio dai fondamentalisti islamici. Un altro cantante molto, molto conosciuto e bravo, si chiama Cheb Bilal, un cantante anche lui che ha passato la sua giovinezza a Orano, dove ha studiato musica e ha iniziato a suonare ai matrimoni, ai festival, sempre a Orano, e che nel 1980 ha creato il gruppo El Awar. Nell'89, proprio come Cheb Khaled, a causa della cattiva situazione, diciamo, in Algeria, se n'è andato in Francia, a Marsiglia, e ha continuato la sua carriera. E appunto ascoltiamo, la prima canzone che ascoltiamo è appunto OE di Cheb Bilal. Oh, Allora, ricordiamo i nostri social, il sito wombat.noblogs.org, dove potete ascoltarci in streaming, Twitter e Facebook Radio Wombat Firenze, la mail potete scrivere a postawombat@insiberia.net. Il prossimo pezzo è appunto di Cheb Khaled, una delle canzoni più celebri di Cheb Khaled e dell'intera panorama Rai, diciamo, e Aisha, rilasciata nel 96 da Cheb Khaled, appunto, in un LP chiamato semplicemente Sara, in cui c'è appunto la versione bilingue di questa canzone. Qui ci aspettiamo anche perché appunto Aisha è una delle pochissime parole, delle pochissime brani Rai cantati non in arabo, diciamo, ma in questo caso in francese, e qui ci ascoltiamo appunto il brano in francese, Aisha Cheb Khaled. Comme si je n'existais pas, elle est passée à côté de moi, sans un regard, reine de Saba. J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. voici les perles et bijoux. Aussi au retour de ton cou, les fruits bien mûrs au goût de miel. Ma vie, Aïcha, si tu m'aimes. Questa era appunto Aïcha di Cheb Khaled, anche lui un cantante inizialmente, diciamo, nel primo periodo della sua carriera musicale con base a Orano e poi appunto insieme o con o come diversi cantanti Rai costretto ad emigrare in Francia in questo caso. Come avete notato, come noterete quando parleremo dei cantanti e delle cantanti donne, c'è spesso il suffisso Sheb e Sheba, letteralmente Sheb e quindi anche Sheba al femminile significa giovane, e quindi il giovane Khaled, la giovane Zaunia, il giovane Bilal e così via. Per traslitterazione, cioè diciamo per l'allargamento, diciamo, della parola, dandogli un significato un po' più ampio, significa anche nuovo, nel senso di nuova musicalità. Khaled, il nuovo, nel senso un Rai, una musica araba nuova, appunto, come dicevamo precedentemente, contaminata da tanti generi musicali che si innestano su quella che è comunque la base della musicalità araba. Il prossimo pezzo è Shaba El Baroud, Shaba Zaunia, in questo caso appunto una donna, una cantante, e questo sta appunto a significare anche quanto sia inviso ai fondamentalisti islamici il Rai, proprio perché appunto, e non è solo il caso di Sheba Zaonia, ma anche di altri cantanti donne, sentiremo prossimamente, appunto non è una musica prettamente maschile, in cui diciamo i protagonisti, i cantanti più conosciuti sono esclusivamente uomini. Appunto la prossima è Sheba Zaonia con Shab El Barut. Thank you. siete ancora su Radio Wombat, adesso passiamo agli appuntamenti del fine settimana. Iniziamo fin da domani mattina con la crepa, una TAZ, cioè una Temporary Artistic Zone, che si richiama alle zone autonome temporanee. Gli appuntamenti e le caratteristiche le potete vedere su taz-lacrepa.tk. Mi raccomando, da domattina. Domani sera invece al CSA Nest Emerson ci sarà il concerto degli Ovo più Idle God più The Mild a cura del collettivo Nuovi Rumori, mentre domenica dalle 19 ci sarà la presentazione più la cena del libro Fascisti del Terzo Millennio per un'antropologia di Casa Pound. Per info tutto questo lo potete trovare sul sito www.csaxemerson.it. E il prossimo pezzo è Gendosi Mama di Sheikha Remitti, una delle più popolari cantanti femminili del Rai algerino, popolari perché è nata in un piccolo villaggio nel 1923. E già all'età di 15 anni, facendo un po' proprio il percorso del Rai stesso, come ho detto precedentemente nell'introduzione, comincia a essere cantrice in questi gruppi musicali, diciamo, che sostanzialmente parlavano o si presentavano, suonavano alle festività religiose. E così come la parabola, c'è stata la parabola del Rai, lei dopo già all'inizio, nel primo dopoguerra, ha iniziato a cantare dei piaceri del sesso, dell'amore, dell'alcol e dell'amicizia. E quindi diciamo che è una cantante che ha accompagnato ed è stata accompagnata dall'evoluzione del Rai dal 1930 quando ha iniziato a cantare fin da piccola, fino al 2006, che è l'anno in cui è morta all'età di 83 anni, pensate, per un attacco al cuore, due giorni dopo che aveva dato quello che poi è stato il suo ultimo concerto. Quindi un personaggio notevole dal punto di vista, diciamo, anche non solo della notorietà, ma anche rispetto a quello che ha fatto, per la vita che ha portato avanti al di là del semplice cantare. Una particolarità di Sheikha Remitti è che all'età di 70 anni, dopo essere stata fin da piccola a cantare diciamo, nelle moschee e ai matrimoni, negli anni 40-50, cominciando a cantare anche in questo caso a Orano, nei bordelli, diciamo, nelle taverne, nei souk, l'amore, i piaceri dell'alcol e via dicendo, e dopo aver inciso un sacco di dischi in Francia tra gli anni 80 e gli anni 90, alla fine degli anni 90 è andata, ha fatto una collaborazione con Robert Fripp e Flea dei Red Hot Chili Peppers, nel proprio LP Sidi Mansour. Ci ascoltiamo ora non una canzone da un pezzo dall'LP Sidi Mansour, ma diciamo questo è uno dei pezzi più vecchi di Sheikha Remitti, un pezzo degli anni 50 in cui appunto si nota il passaggio, diciamo, in cui già si nota il Rai che si innesta, un nuovo tipo di musica che si innesta sulla musica tradizionale algerina. Quindi Sheikha Remitti, Gendosi Mama. فرحوا بالعمال وخصمة الرجال صبحوا معاهم الحال ولاد العربية ياي ياي ياي ياي ياي ياي ياي

Allora, state ascoltando Ururu, viaggio musicale attraverso il continente africano, che è in onda ogni venerdì alle 21.30. Per scoprire le molte altre trasmissioni di Radio Wombat, andate sul sito wombat.noblogs.org e scorrete l'elenco del palinsesto, dove potete trovare anche una breve descrizione per ogni trasmissione. Ma anche quando non ci sono trasmissioni, ascoltatela uguale, perché c'è una selezione musicale curata da noi della radio. Ripetiamo anche gli estremi, diciamo, per comunicare, per ascoltare, per sentire Radio Wombat. Ricordiamo appunto il sito wombat.noblogs.org, da cui si può appunto ascoltare la trasmissione in streaming e scaricare i podcast delle trasmissioni precedenti. L'account social, cioè Twitter, Radio Wombat FI, Facebook Radio-Wombat-Firenze, e anche l'indirizzo di posta elettronica postawombat@insiberia.net. Il prossimo pezzo è sempre un pezzo Rai. Si tratta l'autore Abdel Ali Slimani, il pezzo è Mraya, un album, un pezzo tratto Mraya dall'album omonimo del 1996, l'album di debutto di Abdel Ali Slimani, è veramente una canzone suggestiva. Ascoltatela tutta dall'inizio alla fine, perché è veramente un bel pezzo. يا مرايا فكر واليوم عليك يا مرايا فكر واليوم عليك يا مرايا فكر واليوم عليك يا مرايا فكر Yeah, man. Passiamo ad un altro cantante algerino, cantautore, che mescola i suoni delle sue radici berbere con musica più moderna. Sto parlando di Abdelli con GSK, The Sporting You Out of Kabyle. جياسك عزيزن حملاك مذيب منينو فلا مرشنوك متشبحة سنسخرو جياسك عزيزن حملاك مذيب منينو فلا مرشنوك متشبحة سنسخرو عندث الدغن الداك نفغبر في الساون ما تربح ضيلهام ولا شرس النغن عندث الدغن الداك نفغبر في الساون لا تربح ضيلها ولا شرس النغم اي فروخه شلت وشرق ديك هنوان اي فروخه شلت وشرق ديك هنوان يذور نحملت سدر في الهوان يذور نحملت سدر في الهوان اي فروخه شلت من عطال ولا ونذنى إلا الزمان جياس كعزيز الحام لكن ذي ذمنينو فلا مارش نوك متشبح عصر سفرو جياس كعزيز الحام لكن ذي ذمنينو فلا مارش نوك متشبح عصر سفرو عندث قضن الداك اللي فغذر يساو داخل بحضي الهام ولا شرس النغم عندث قضن الداك اللي فغذر يساو داخل بحضي الهام ولا شرس النغم جرجر عبد يقول يا فلوكن الله بريدك جرجر عبد يقول يا فلوكن الله تسوثر والسرني افكس نزل ذم قران تسوثر والسرني افكس نزل ذم قران بريدك جرجر عبد يقول يا فلوكن الله تسوثر والسرني افكس نزل ذم قران Sempre Radio Wombat, sempre Uru, la trasmissione che vuole esplorare da un punto di vista musicale il continente africano, ma appunto non solo suoni, voci, musica, ma anche un po' di notizie, tanto più che dal continente africano non arrivano o non sono particolarmente coperte dai mass media le notizie e quando sono coperte fanno sempre quasi esclusivamente riferimento a quello che sono diciamo i media e quindi le notizie mainstream, gli incontri tra capi di Stato, diciamo le visite tra capi di Stato, le visite nel continente europeo, i cali economici eccetera eccetera. Noi invece vogliamo darvi anche un po' di altre notizie e purtroppo la notizia di questa settimana riguarda la morte dello scultore senegalese Ousmane Sow, che è morto appunto all'inizio della settimana nella sua abitazione di Dakar, ma ci premeva dare la notizia anche per parlare seppur brevemente di Ousmane Sow. È uno scultore senegalese che già nel 1978 ha iniziato a realizzare le sue prime sculture, che sono grandi figure e che sono sempre una serie di sculture, di cui la prima si intitola Nuba, che è il nome di un popolo del Sudan. Le sue sculture sono veramente particolari, sono prodotte con una tecnica molto personale, in cui Ousmane Sow, su un'armatura di metallo, paglia, tela di jute e altri materiali, modellava il suo oggetto con una pasta creata da lui stesso e composta di terre e minerali mescolate e macerate insieme ad altri prodotti. E quindi l'uomo, in questo caso, è sempre al centro delle sue preoccupazioni artistiche. E appunto l'uomo al centro delle sue preoccupazioni artistiche, e quindi l'Africa al centro delle sue preoccupazioni artistiche. Tant'è che appunto la prima serie si intitola Nuba, comprende 12 sculture e rappresenta guerrieri e lottatori del Sudan. Segue poi la serie Masai, realizzata tra l'88 e l'89, costituita da 6 pezzi, di cui alcuni formati da più sculture, che rappresentano donne, 4 uomini, un bambino e 2 bufoli, appunto dell'etnia Masai, Kenya e la Tanzania. Sono seguite poi Gavroche, che appunto parla di Gavroche, ragazzino protagonista di un'opera di un importante scrittore francese, Marianne e la Révolution, 3 pezzi rappresentano una dama e 2 uomini che appunto rappresentano la rivoluzione francese. Un'altra opera, in questo caso isolata, è Toussaint Louverture, il grande rivoluzionario haitiano, e via dicendo. Tra le ultime opere realizzate c'è anche Little Bighorn, appunto un omaggio a questa grande battaglia, e quindi un omaggio al popolo nativo americano. Sono 23 personaggi, 8 cavalli, che vengono raffigurati dentro le scene della battaglia. Appunto volevamo ricordare Ousmane Sow, vi consigliamo di vederle, se non altro andando in rete, digitando Ousmane Sow, e quindi in cui potrete appunto vedere queste sculture, sono veramente bellissime, in cui si capisce proprio la passione e il sentimento in cui il grande scultore senegalese le realizzava. Il prossimo pezzo è un cantante algerino e non è neppure un cantante dai. È un cantante nativo e che ha portato avanti la propria carriera musicale quasi esclusivamente in Nubia, nel sud dell'Egitto, e che sotto certi aspetti appunto si ricollega anche alla prima serie di sculture di Ousmane Sow. Che sono sculture che riguardano appunto il nord del Sudan. In questo caso stiamo parlando della Nubia, che è il sud d'Egitto, però la regione al confine con il Sudan, o meglio una regione divisa tra Egitto e Sudan. Ali Hassan Kouman è un cantante egiziano, in cui appunto anche lui innesta su suoni caratteristici egiziani tutta una serie di strumenti e di sonorità non prettamente egiziane, e così come su suoni della tradizione, testi della tradizione musicale egiziana, appunto sempre Ali Hassan Kouman innesta testi diversi, in cui non parla soltanto dei motivi tradizionali, ma anche modernizza i suoi testi. Questa è Enna, Ali Hassan Kouman. Be your man. حبابك يا ود القبيلة ابشر حبابك يا ود القبيلة ابشر حبابك يا ود القبيلة حضر القبائل من كل حلة الليلة الحنة وبكرة الدخلة الليلة الحنة وبكرة الدخلة زغرت يا بنات يا بنات يا بنات زغرت يا بنات يا بنات يا بنات زغرت يا بنات يا بنات يا Se avete perso o volete riascoltare una trasmissione di Radio Wombat, basta andare sul sito e scegliere podcast e lì trovate tutte le trasmissioni. Potete riascoltarle o scaricarle. L'unica eccezione è la prima puntata di Ururu, però la potete trovare sulla home page scorrendo fino a trovarla. Il prossimo pezzo è Sheb Khaled, ritorniamo al grande Sheb Khaled, ritorniamo a Orano, si intitola Ya Lowlid, è uno dei pezzi più importanti, più famosi di Sheb Khaled ed è anche l'ultimo pezzo, il pezzo in cui chiudiamo la trasmissione per oggi, Sheb Khaled, Ya Lowlid. ويا الوليد يا الوليد Lasciamo Shed Kaled, e questa era l'ultimo pezzo della serata. Ci risentiamo venerdì prossimo alle 16 dicembre alle 21.30, sempre con Ururu, suoni e musica dall'Africa. Ciao, ciao a tutte e tutti.